mare se non bevassero, piuttosto che bema seghe mi tutto il beverò, e tanto il beverà noi canteremo la bomba bala bomba bala bomba la. Io ho bevuto tutto e non m'ha fatto male, l'acqua fa male, il vino fa cantare, questa è la regola che segnano gli squisseri, alzano il gomito e vuotano il bicchiere, l'acqua fa male, il vino fa cantare. Bevano i nostri padri, sì, bevano le nostre madri, sì, e noi che figli siamo, beviamo, beviamo, beviamo, e noi che figli siamo, beviamo, beviamo, beviamo, del bianco moscatello, del nero marzenin, se ne avessi un botticello ne vorrei vederla fin, se ne avessi un botticello ne vorrei vederla fin. L'acqua fa male, il vino fa cantare. Bevono i nostri padri, sì, bevono le nostre madri, sì, e noi che figli siamo, beviamo, beviamo, beviamo, e noi che figli siamo, beviamo, beviamo, beviamo, del bianco moscatello, del nero marzenin, se ne avessi un botticello ne vorrei vederla fin, se ne avessi un botticello ne vorrei vederla fin. Bevono i nostri padri, sì, bevono le nostre madri, sì, e noi che figli siamo, bevono.